perfetto giorno. Alle 13 in punto, una buona giornata da Laura Bettini per questa puntata di Effetto Giorno. Vediamo insieme i titoli di questa giornata. C'è ovviamente in primo piano l'incidente ferroviario di Lodi, il malfunzionamento di uno scambio è al centro delle indagini e siamo anche nel mezzo delle due ore di sciopero proclamate ieri per la morte dei due dipendenti FS. Coronavirus, resta lo stop ai voli Italia-Cina, siamo gli unici in Europa. Sta bene l'italiano infettato, intanto Standard & Poor's ha tagliato le stime del PIL per la Cina. ArcelorMittal, accordo per negoziare fino alla fine di febbraio, udienza rinviata al 6 di marzo. Commercio, i dati Istat certificano a dicembre un più 0,5% dell'effetto Natale su base annua, ancora comunque un rialzo. Sanremo, un record anche per la terza serata con Benigni e le cover, è arrivato al 54,4% di share con 9 milioni e 800 mila spettatori. E come dicevamo, una buona giornata da Laura Bettini. WhatsApp 349-238-6666 per poter commentare le notizie di cui ci occuperemo in questa puntata, ma c'è anche ovviamente Facebook, Effetto Giorno, e lì potrete continuare a commentare tutto il giorno quello che tratteremo tra poco. Iniziamo ovviamente, come doveroso in una giornata come questa, dalle indagini sul deragliamento del Frecciarossa di ieri. L'attenzione si concentra sulle cause dell'incidente. Il ferito più grave, l'addetto alle pulizie con una gamba fratturata, è stato operato oggi. Gli altri 30 invece sono stati dimessi tra la giornata di ieri e questa mattina. È iniziata questa mattina la rimozione dei detriti del Frecciarossa deragliato ieri a Ospedaletto Lodigiano. L'area nella notte è rimasta sorvegliata e illuminata dalla torre faro della Protezione Civile. Si cerca anche il più piccolo pezzo che possa contribuire a spiegare meglio la dinamica di quanto accaduto. Sarà l'inchiesta per disastro colposo della Procura di Lodi insieme a quella delle Ferrovie a chiarire le cause dell'incidente costato la vita ai due macchinisti Giuseppe Cicciù e Mario Di Quonzo. L'ipotesi più accreditata resta quella dello scambio malfunzionante a causa di un errore umano, lo scambio all'altezza del quale la motrice ha sviato, lo scambio sul quale quella stessa notte erano stati eseguiti lavori di manutenzione e che era stato lasciato aperto. Eppure alle 4.45 e 50 minuti prima dell'incidente un fonogramma inviato alla centrale certificava il deviatoio in posizione normale e dava il via libera al transito. Un ok senza secondo controllo di sicurezza perché a quanto pare l'intervento non era stato risolutivo e si era deciso di lasciare quel tratto disalimentato, cioè isolato dalla rete. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come annunciato, appunto, siamo nel pieno dello sciopero di due ore che è stato indetto da tutti i sindacati di categoria per la morte dei due dipendenti FS. Uno sciopero e una prima riunione con l'azienda. Il giorno dopo il drammatico deragliamento del Frecciarossa, i sindacati fermano in parte i treni. Due le ore di astensione proclamate dalle principali sigle dalle 12 alle 14. Altre incrociano le braccia dalle 9 alle 17, mentre sono stati subito programmati i primi incontri tra delegazioni di lavoratori con Trenitalia ed RFI. Trenitalia assicura servizi minimi di trasporti con un elenco di collegamenti garantiti, ma tra il sequestro dei binari sul luogo dell'incidente e lo sciopero, gli effetti si ripercuotono su tutta la linea. Vogliamo risposte subito, perché se c'è l'errore umano, commenta Giovanni Abimelech, sindacalista Fit CISL, le cose non vanno bene. Noi eravamo convinti dell'efficienza, ci siamo svegliati perdendo questa certezza. Anche i lavoratori del Trentino aderiscono alla mobilitazione in memoria dei due macchinisti morti. Tutti i segnali della grande rabbia, conferma Stefano Malogiorno, segretario nazionale FIT CGL della categoria. Il tema della sicurezza deve essere messo al centro delle politiche aziendali, al centro delle politiche del lavoro. Tra sindacati e azienda subito le prime riunioni in nome della sicurezza dopo il primo grave incidente sull'alta velocità. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E lo sciopero terminerà alle 14. L'altro grande tema del periodo, non solo certo di questa giornata, è quello del coronavirus. Resta la sospensione dei voli dall'Italia alla Cina, restano sotto osservazione anche ovviamente tutti ricoverati allo Spallanzani. I collegamenti aerei diretti con la Cina sono e restano chiusi. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza, smentendo a stretto giro Pechino, che poco prima aveva annunciato la disponibilità dell'Italia a riattivare alcuni collegamenti con la Cina. Il blocco aereo italiano, l'unico adottato tra tutti gli stati UE, è stato confermato dalla Farnesina, nonostante la protesta formale della Cina e nonostante la decisione italiana vada oltre le raccomandazioni dell'OMS. Intanto riparte la quarantena per i 55 connazionali rientrati da Wuhan, che si trovano alla Cecchignola. La decisione dopo che tra loro è risultato positivo al coronavirus il ricercatore 29enne di Reggio Emilia, ora ricoverato allo Spallanzani. È in buone condizioni generali, presenta una lieve febbricola, fanno sapere dall'ospedale, dove restano in condizioni critiche i coniugi cinesi ricoverati 10 giorni fa. Sulla Diamond Princess, la nave da crociera in quarantena nel porto di Yokohama, altri 41 dei 3.700 passeggeri provenienti da 6 paesi diversi sono risultati positivi al test, portando il totale dei contagiati a 61. Tra di loro al momento non risulta nessuno degli italiani presenti sulla nave, 35 in tutto. Intanto il bilancio ufficiale parla di 638 vittime, oltre 31.000 contagiati e 29 casi in Europa. Nel nostro paese interviene a tranquillizzare il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito: non si rappresentano casi acquisiti sul territorio nazionale, in Italia non c'è circolazione locale del virus, le sue parole. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poco fa dall'OMS è stato lanciato un allarme, cioè che in tutto il mondo si stanno esaurendo le mascherine e gli strumenti di protezione dall'epidemia di coronavirus. Un allarme lanciato dal direttore generale dell'OMS. Il mondo deve fare fronte ad una carenza cronica di equipaggiamento per la protezione personale, così ha spiegato da Ginevra. È stata rinviata al prossimo 6 di marzo l'udienza con al centro il caso ArcelorMittal, l'ex Ilva, con l'auspicio che entro fine febbraio si arrivi ad un accordo. Ennesimo rinvio con la possibilità di trattare per altre 4 settimane, anche se alcuni punti fermi già ci sono. Il Tribunale di Milano, sulla richiesta congiunta di governo ArcelorMittal, ha fissato un nuovo termine, il 6 marzo. E questa è l'ennesima data in cui le due controparti potranno affinare un accordo che ieri è stato delineato in alcuni elementi di base. Primo punto, il governo, almeno per ora, non entra nella vecchia società controllata da Arcelor che ha in affitto la vecchia Ilva. Secondo punto, ArcelorMittal non entra nella nuova società a maggioranza pubblica che dovrà fare il preridotto. Ancora 4 settimane dunque per capire che cosa capiterà all'occupazione e alla valutazione dei crediti pubblici e bancari nell'ipotesi di convertirli in capitale della vecchia e indebitatissima azienda. Due cose sono certe. La prima è che da novembre ArcelorMittal potrà uscire pagando 500 milioni di euro. La seconda cosa è che la prossima data, il 6 marzo, è davvero l'ultima, perché questo è un procedimento di urgenza. E un ulteriore rinvio darebbe i colori della farsa a una questione che è già abbastanza drammatica, se non tragica. Ancora un mese di via crucis siderurgica, dunque, e poi sapremo. Paolo Bricco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel mondo politico, intanto, si continua a discutere su un tema, soprattutto quello della prescrizione. La riforma del processo penale della prescrizione dei reati spacca la maggioranza nel vertice di ieri sera a Palazzo Chigi. Movimento 5 Stelle, PD e Leo hanno trovato un'intesa sulle modifiche da fare, mentre Italia Viva si è smarcata. La nuova intesa prevede che il blocco della prescrizione scatterà in via definitiva solo dopo una condanna in appello. Ma la soluzione non piace a Matteo Renzi. Questo accordo a 3 non ha i numeri in Parlamento, dice, così si rischia un pasticcio. Non lascio il governo, puntualizza il leader di Italia Viva. L'intesa è insufficiente, sottolinea, perché contiene ancora un principio giustizialista. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dice no a contrapposizioni manichee tra garantisti e giustizialisti. Il governo è al lavoro per accelerare i tempi della giustizia, scrive su Facebook. Arriva il momento delle decisioni. Gli italiani, dice Conte, si aspettano risposte, concretezza, non litigi e rinvii. Sulla prescrizione, spiega il ministro della giustizia Alfonso Bonafede, si stanno valutando varie ipotesi legislative, incluso il decreto legge. La riforma approderà comunque al prossimo Consiglio dei Ministri. Lunedì in Consiglio dei Ministri andrà la riforma del processo penale per garantire ai cittadini italiani certezza e brevità dei tempi del processo penale per quanto possibile. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Commercio al dettaglio in versione di tendenza a dicembre grazie a consumi natalizi, giù però i piccoli negozi e boom degli acquisti su internet. A dicembre i consumi di Natale hanno spinto le vendite al dettaglio come da tradizione ed è grazie a questo che secondo l'Istat sono tornate a crescere su base mensile, aumentando dello 0,5%. Le vendite dei prodotti alimentari nel mese di dicembre segnano uno stallo sull'informatica e la telefonia. La flessione più marcata investe invece i prodotti farmaceutici, meno 2,5%, ma nel complesso va meglio. Il rialzo infatti segue due flessioni congiunturali consecutive. Si tratta del settimo incremento di fila in termini tendenziali e con questi aumenti crescono le vendite al dettaglio nel complesso nel 2019 dello 0,8% in accelerazione rispetto all'anno prima, ma se la grande distribuzione registra una crescita dell'1,4%, le vendite nei piccoli negozi risultano ancora in flessione per il terzo anno consecutivo. Da sottolineare però il significativo aumento del commercio elettronico con un balzo del 18,4%, un boom del web. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sulla questione Sanremo, che ha fatto ancora un record, la terza serata con Benigni e le cover è arrivata al 54,4% di share. Ecco, sulla questione Sanremo torneremo tra pochissimo dopo GR24. Approfondiremo anche un'altra questione che si è dibattuta oggi sui giornali, ovvero quella del compenso che viene dato agli orchestrali che in questi giorni sono impegnati ore e ore a Sanremo. Torneremo dopo la viabilità. Ora anticipiamo il collegamento con Carlo Genta, che ci ha già raggiunto in studio. Carlo, ultime agenzie battute che riguardano ovviamente il tuo campo. Sì. La prima, Sinisa Mihajlovic sta bene, era ricoverato per la terapia, sì. È stato dimesso da... Questa riguarda un po' il campo di tutti. Un po' il campo di tutti, però riguarda anche, certo, ovviamente più da vicino forse voi dello sport. La seconda più da vicino alla città di Milano, perché abbiamo Ibrahimovic pronto a giocare da titolare. C'ha un risentimento al polpaccio, un indolenzimento, leggo in agenzia, ma insomma è ben determinato a giocare questo derby. Sì, poi sai, avendo a che fare con la terza età, il risentimento al polpaccio può sempre diventare qualcosa di più importante, di più serio. Però insomma un po' tutti, salvo gli interisti credo, si augurano che giochi Ibrahimovic, perché aggiungerebbe o aggiungerà certamente qualcosa al derby di domenica sera. Qui arriveremo dopo il Bologna di Mihajlovic già stasera contro la Roma a Roma, quindi si apre così il sipario su questa giornata di Serie A. Domani c'è la Juventus con Ronaldo, che penso tornerà in tempo da Sanremo. Ma chi lo sa? Chi non può si dirlo? È molto divertito a vedere le foto comunque. Vabbè, però deve andare per ragioni familiari, certo, che conosciamo bene. Gioca però domani sera a Verona, mica facile, 20:45. Prima della partita della Juventus ci sarà Fiorentina-Atalanta. Il Torino con il nuovo allenatore in panchina a lungo, che ha sostituito Mazzarri, alle 18 contro la Sampdoria. E poi la domenica adesso è ancora lontana, anche se i bagliori del derby si vedono a distanza, hanno molta distanza da qua. Per la verità, almeno dal punto di vista fisico, no? In linea d'aria non siamo lontanissimi da San Siro. Tra l'altro molti dicono potrebbe essere uno degli ultimi derby a San Siro. Io, quanto a questioni di nuovo stadio eccetera, faccio come San Tommaso. Finché non vedo, non ci credo. Ne parleremo quando vedremo qualcosa di concreto. Uno degli ultimi lunghi, nel senso che da noi le cose non è che si cambiano in 5 minuti. Mi sembra che sulla questione ci sia ancora molta discussione. No, ma spesso nemmeno in 5 anni o in 50, quindi... E infatti è uno degli ultimi... Certo, è tutto relativo, ecco, dipende dal termine che prendi come ultimo. Ci piace molto parlare. E fare le riunioni e poi costruire. Ci piace molto parlare anche a tutti i convocati, quindi no? Siete tutti convocati a parlare dalle 14. Di tutto quello che volete alle 14, anche con i WhatsApp vocali 349-238-6666. Numero che peraltro è valido anche per parlare con Effetto Giorno. Grazie Carlo Genta. Grazie a te Laura. Appuntamento alle 14. Adesso noi ci fermiamo per le notizie sulla viabilità, tra l'altro importanti anche relativamente al fatto che, come dicevamo, ci sono gli scioperi dei treni e quindi un po' più di problemi sulla rete viaria e sicuramente problemi sulla rete ferroviaria. Ci ritroviamo subito dopo, parliamo di Sanremo. Effetto Giorno. I titoli delle principali notizie: incidente ferroviario di Lodi, il malfunzionamento di uno scambio al centro delle indagini, siamo nel mezzo delle due ore di sciopero. Coronavirus, resta lo stop ai voli Italia-Cina, sta bene l'italiano infettato, Standard & Poor's taglia le stime del PIL per la Cina intanto. ArcelorMittal, accordo per negoziare fino a fine febbraio, quindi udienza rinviata al 6 marzo. In Valle d'Aosta, sciolto per mafia il comune di Saint-Pierre, ci torneremo tra poco, e a Sanremo ascolti record anche per la terza serata. La protesta di alcuni orchestrali, ricchi cash per gli ospiti, paghe troppo basse per i musicisti, è vero? Ne parliamo tra pochissimo. E allora iniziamo proprio da Sanremo, ma cominciamo con la cronaca della serata di ieri. Abbiamo in collegamento Marta Cagnola, buongiorno Marta. Buongiorno, il momento dei numeri e delle istruzioni in Ferruso per stasera. Allora, intanto 9.836.000... La prima è dotarsi di caffè, visto l'andazzo. Sì, tanto, parecchio. Tanto, eh? Vero? Sì, perché allora ieri sera c'è stato il 54,5% di share contro il 46,7% dell'anno scorso, ma la serata è finita alle 2:03. È il miglior risultato del 1997, quando la terza serata del Festival di Mike Buongiorno fece segnare il 55,5%. Le interazioni sui social sono più che raddoppiate rispetto al 2019, dicono i dati Nielsen. Piccolo vademecum per questa sera: ricanteranno i 24 cantanti, ma nella canzone originale, quindi basta cover, sono le canzoni in gara, e ci sarà la finale dei giovani, e poi ci sono i super ospiti, ci sarà ad esempio Tony Renis, che arriva stasera, dovrebbe tornare Fiorello, che ha fatto pace con Tiziano Ferro, visto che ci sono stati dei piccoli screzzi tra loro. Sì, beh, sono talmente così veloci questi screzzi tra di loro, che a volte sembrano quasi costruiti, però vabbè, questo non lo possiamo sapere. Ma poi soprattutto capisci che sono veri, perché poi succedono delle cose sui social, che si scrivono messaggi sui social per... Ma perché non si parlano? Vabbè. Perché ormai è così, ormai ci piace comunicare tutto con le storie di Instagram. A proposito di ciò che viene comunicato attraverso appunto mezzi di informazione e social, vorrei introdurre anche il nostro prossimo ospite, che è Livio Emanueli, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Buongiorno. Buongiorno. Allora Marta, resta in collegamento, perché tu ovviamente sei perfettamente al corrente della questione, che è questa. Abbiamo letto alcuni articoli di stampa con diciamo un malumore, delle proteste, comunque parole piuttosto pesanti da parte di alcuni orchestrali, che dicono: lavoriamo tanto ma abbiamo una paga un po' bassina, risicata, si aggira sui 50 euro al giorno. Intanto vorremmo sapere da lei se è proprio così, oppure è una parziale ricostruzione. C'è un problema sulle paghe degli orchestrali? Ma direi che è una parziale ricostruzione, dopodiché sicuramente non sono i più pagati del festival, questo è sicuro. Allora, di base noi portiamo al Festival di Sanremo, come orchestra sinfonica di Sanremo, circa 30 orchestrali, di cui una parte sono nostri professori, un'altra parte sono personale aggiunto. Noi facciamo loro un'offerta forfettaria ai nostri professori, ad esempio, che va oltre lo stipendio di base che hanno. Lo stipendio di base di un orchestrale va dai 1.500 ai 1.800 euro netti al mese. In più, per fare questi 32-33 giorni di festival, facciamo tutti gli anni un'offerta forfettaria, che all'incirca si aggira per quest'anno sui 1.900 euro netti. In più, ovviamente, il viaggio e il vitto e l'alloggio su Roma per i nostri orchestrali sono pagati. Noi non costringiamo nessuno a partecipare al festival, chiediamo chi vuole partecipare, e chi vuole partecipare stipula, firma un contratto che poi diciamo viene onorato dalle parti. Ma da dove nasce fuori, le chiedo in ultima istanza, da dove nasce questo risentimento? Se io firmo, sono d'accordo, c'è un'invidia rispetto ad altri che sono appunto magari professionisti, che vengono contrattualizzati a parte? Cioè, come se lo spiega? Ma io vorrei anche fare un altro inciso. Io sarei felicissimo di strapagare il personale di Sinfonica, sia strutturato che il personale aggiunto. Come probabilmente saprete, le orchestre sinfoniche di tutta Italia sono in grandissima crisi, quindi io da presidente comunque mi devo limitare a fare le offerte che la cassa mi consente. È per questo comunque che le nostre offerte non sono così allettanti. sicuramente chi lavora per altri può ricevere offerte migliori. Ma tenete anche presente questo, non so, si faceva riferimento a chitarristi esterni, sì, a Rai, che da Rai prendevano un cachet più importante che poteva essere superiore ai 300 euro al giorno, ma se voi togliete in una stagione come quella del festival il viaggio, il vitto e alloggio, capirete bene che comunque non si arriva a delle cifre molto, certo, diverse. Non tornano a casa arricchiti. No, e poi i nostri percepiscono comunque il loro stipendio, quello che noi andiamo a dare è un bonus per fare il festival. Perfetto. Dopodiché, ripeto, io sarei ben contento di poter fare di più, eh. Non è che noi troviamo piacere comunque a fare delle offerte che magari sono al di sotto di quello che il mercato consiglierebbe. Però la ringrazio. Questa è la situazione. Grazie a voi. Grazie Presidente, grazie Marta Cagnola in collegamento con noi. Dobbiamo chiudere questo spazio, ma una questione interessante, magari ci ritorniamo sulla questione delle orchestre. Cambiamo decisamente argomento. E abbiamo il reportage che sarà in onda domenica alle 8:15. Parliamo di che cosa? Di un'archiviazione a Taranto per l'incertezza di leggi e sentenze, una soluzione ad Ancona perché il fatto non sussiste. Dalla sentenza di maggio della Corte di Cassazione sulla Cannabis Light nel settore è ancora il caos. Appunto, l'anticipazione del reportage in onda domenica 9 febbraio alle 8:15 su Radio 24. A oltre 8 mesi dalla sentenza della Cassazione, che ha definito illecita la commercializzazione di foglie, infiorescenze e derivati dalla cannabis light con efficacia drogante, è ancora il caos. Molti i sequestri in tutta Italia, tante le archiviazioni e assoluzioni, come a Taranto, dove a gennaio il GIP ha archiviato l'inchiesta Affari in fumo proprio per la confusione causata da una stratificazione di leggi e sentenze, scrivono i PM. Gli attori coinvolti chiedono l'intervento delle legislatore. Il nodo è la soglia oltre la quale scatta l'efficacia drogante, ma secondo i tossicologi forensi la legge è chiara. Donata Favretto, presidente Tossicologi Forensi Italiani. La sentenza della Cassazione a sezioni riunite ha ribadito che gli unici usi di questa cannabis a concentrazione inferiore allo 0,6% sono gli usi agricoli, industriali, cosmetici e quant'altro, ma non l'uso personale. Questo è chiaro, quindi non deve esserci caos su questo. Sul fronte politico, dopo il nulla di fatto in legge di bilancio e mille proroghe, alcuni deputati ci riprovano, così Riccardo Magi. La proposta di legge che noi abbiamo depositato prevede di chiarire definitivamente che è legale la produzione e la commercializzazione di questi prodotti. Una integrazione dunque alla legge 242 del 2016 che ha normato la filiera della canapa. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tutto questo quindi in onda domenica, ricordo, alle 8:15 qui su Radio 24. Cambiamo ancora una volta tema e andiamo ad affrontare una questione che qui da questi microfoni più volte è stata affrontata, la questione Val d'Aosta. È stato sciolto per infiltrazioni mafiose il Consiglio Comunale di Saint-Pierre. E vogliamo fare un po' il punto di questa situazione, che poi è l'epilogo di una vicenda, con Daniele Mammoliti, che è cronista della Stampa, presidente dell'Associazione Stampa Valdostana. Buongiorno. Buongiorno a voi. Daniele, allora, questo è l'ultimo passo, no, di un percorso che ha portato la Val d'Aosta alla ribalta, purtroppo, direi, no? Mi sembra. Sì, una pessima ribalta. Una pessima ribalta. Cosa sta succedendo in Val d'Aosta? Che vaso di Pandora è stato scoperchiato? È stato scoperchiato, sì, tu usi una giusta espressione, parrebbe proprio un vaso di Pandora. Questa vicenda è l'epilogo, ma non la conclusione, di un caso scoppiato ormai oltre un anno fa, cioè il 23 gennaio del 2019, quando i carabinieri hanno effettuato la cosiddetta operazione Genna, chiamata così come la valle dei dannati, mm-hmm, nella Bibbia, che ha tratto in arresto 16 persone, tra cui diversi amministratori pubblici, comunali e regionali, ipotizzando per la prima volta l'esistenza di una locale di 'ndrangheta in Valle d'Aosta. Quindi 16 arresti con accuse di associazione mafiosa, concorso esterno e via dicendo. Tra questi arresti anche una consigliera, una assessora comunale per l'appunto, esatto. Ed è da lì che è partita la commissione d'inchiesta del comune che ha portato ieri al decreto di scioglimento del comune di Saint-Pierre, che è un piccolo comune in provincia di Aosta. In provincia di Aosta sono 3.000 anime. Nel quale pare a questo punto è accertato, perché è scritto chiaro e tondo sia sulle relazioni dei commissari sia sul decreto del Consiglio dei Ministri, che l'amministrazione fosse condizionata dall'andrangheta, dalla criminalità organizzata. Senti, ma Daniele, tu hai detto all'inizio è l'epilogo ma non la conclusione, cioè l'epilogo di una vicenda ma non la conclusione del tutto, quindi restano aperti i vari fronti di indagine? Sì, allora questa inchiesta Genna a cui ho fatto riferimento sta avviando ora, proprio in queste ore tra l'altro, i primi processi delle persone arrestate. Ci sono una serie di processi in rito abbreviato e tra un mese ad Aosta si apre il processo che coinvolge un ex consigliere regionale, un ex consigliere comunale di Aosta e altri personaggi sospettati di essere collante tra il piano politico e il piano della criminalità organizzata. A dicembre l'inchiesta Genna ha aperto uno spin-off, se posso dire così. C'è una seconda inchiesta che ipotizza pressioni dell'andrangheta sulle ultime elezioni regionali celebratesi nel 2018. È stato un secondo terremoto perché sono arrivati almeno, dico almeno perché quelli sono quelli di cui abbiamo conoscenza, 4 avvisi di garanzie ai vertici dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta, cioè sì, certo, all'allora presidente della regione, 2 assessori e il capogruppo di uno dei principali movimenti autonomisti valdostani, cioè Legno Valdutene. Da allora la regione Valle d'Aosta ha una giunta a termine, perché le regole locali impongono che in caso di dimissioni le persone che hanno avuto un avviso di garanzia si sono dimesse subito dopo. In caso di dimissioni ci sia una giunta retta dal suo vice, ma per postare solo per 60 giorni. 60 giorni stanno per scadere, scadranno il 14 febbraio, e quindi qui in Valle d'Aosta siamo a un passo da elezioni anticipate. C'è una crisi politico-amministrativa che ha intanto bloccato l'approvazione del bilancio alla fine del 2019, portando la regione all'esercizio provvisorio, cosa anche questa un inedito per una regione. Per la Val d'Aosta. La nomea di regione efficiente è sempre stata questa. Invece abbiamo fatto un mese di esercizio provvisorio. E poi dicevi, scusa, che dobbiamo chiudere l'altro aspetto, uno è questo? E l'altro, appunto, non c'è un governo in questo momento che abbia pieni poteri, non si riesce a trovare una nuova maggioranza, quindi probabilmente si andrà ad elezioni anticipate questa primavera, elezioni anticipate che chiaramente sono condizionate da questo clima, a questo punto, di shock anche in una comunità. E che magari anche di sfiducia in una certa misura. Daniele, grazie, allora ci risentiamo per appunto questo second step, prossimo capitolo, rifare il governo regionale valdostano. Grazie molte, c'è la borsa adesso. Effetto giorno. Ed eccoci qui ancora insieme, sono le 13:35, le principali notizie, l'incidente ferroviario di Lodi ovviamente e le indagini, si studia il malfunzionamento di uno scambio, siamo nel quasi al termine in realtà, non siamo più al centro delle 2 ore di sciopero perché lo sciopero terminerà alle 14, poi la questione coronavirus, resta lo stop ai voli dall'Italia alla Cina e viceversa, sta bene l'italiano infettato. Per il coronavirus Standard & Poor's ha tagliato le stime di crescita della Cina, in Germania e Francia netta contrazione della produzione industriale. Intanto ArcelorMittal, accordo per negoziare fino a fine febbraio, l'udienza viene rinviata al 6 di marzo. marzo. Commercio, i dati Istat certificano a dicembre un più 0,5%, l'effetto Natale su base annua ancora un rialzo. Infine Sanremo, record, la terza serata con Benigni e le cover arriva al 54,4% di share. E qualche commento arriva proprio su questo punto. Capisco abbiate problemi di contenuti, dice un ascoltatore, per la trasmissione, ma non credete di dedicare troppo tempo al festival? Beh, se 10 milioni di persone lo seguono, forse c'è di che parlarne. Questioni orchestrali che poi abbiamo affrontato, non sono certo gli orchestrali che portano gli introiti, scrive un ascoltatore, cioè ascolti, quindi pubblicità, sono gli ospiti e i cantanti e quindi diciamo così che è logico che siano pagati meno, mentre altri commentano i musicisti sono comunque sottopagati per il carrozzone che è Sanremo, quindi questione Sanremo sempre al centro del dibattito. Però di dibattiti oggi ne abbiamo tanti da fare e soprattutto vogliamo vagliare insieme alcune notizie economiche particolarmente importanti che sono arrivate. Avete sentito la questione cinese, c'è una decisione di Standard & Poor's di tagliare le stime di crescita della Cina, poi è arrivata la questione della produzione industriale in Germania, un crollo la produzione industriale in Francia, un altro crollo, e allora abbiamo chiesto ad Alberto Orioli di venire in studio con noi, il vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, da dove partiamo? Dalla produzione industriale tedesca all'apertura della giornata? Direi di sì, perché oggi la prima doccia fredda è arrivata proprio dalla Germania, perché la produzione industriale tedesca è crollata a dicembre in modo congiunturale del 3,5%, ma in modo strutturale del 6,8% dicembre su dicembre, quindi in ragione d'anno. È un bruttissimo dato che dà conto del rallentamento dell'economia della Germania, che ricordiamo è la locomotiva europea e alla quale noi siamo attaccati con moltissime filiere produttive della nostra manifattura. Contemporaneamente è arrivato un brutto dato anche dalla Francia, sempre di produzione industriale, un po' meno grave di quello tedesco, ma comunque sempre in calo di un po' più di 2 punti, anzi quasi 3 punti. Quasi 3, sì. E quello in ragione d'anno, per la verità, poi migliora, perché la Francia ha avuto una performance differente, siamo a un calo del 2% grosso modo in ragione d'anno. Questo va abbinato peraltro all'altro indicatore congiunturale, che è quello anticipatore che è fornito dall'Istat poche ore fa, che appunto vede comunque una performance negativa del nostro prodotto interno lordo. L'orientamento appunto rimane brutto, anche se un po' meno brutto di prima. La locuzione che usa l'Istat è con intensità più contenuta rispetto al passato. La cosa più brutta, non so se vado avanti. No, tu hai già anticipato appunto la questione delle PIL sulla quale ti avrei portato. Certo, meno acuta, ma certo non vuol dire che va bene. Con le notizie che ci hai dato poco fa, appunto, che ricordavi poco fa, sia sulla Germania, in particolare la Francia, le prospettive non sono ottime, direi. No, le prospettive non sono ottime. Tra l'altro questa sera dovrebbe arrivare la famosa pagella di Fitch, che è una delle agenzie di rating che decidono le sorti appunto dei vari paesi e decideranno come considerare il grado della nostra pagella e l'outlook, cioè la performance attesa per il nostro paese, e vedremo. Per ora noi, secondo loro, siamo in una previsione negativa. Se fossero clementi probabilmente la potrebbero migliorare in stabile, che già sarebbe un bel risultato, però vedremo, insomma non siamo in grado di anticiparlo. La questione cinese può in qualche maniera colpirci, diciamo, inaspettatamente? Beh, direi proprio di sì. Oggi appunto la correzione che fa Standard & Poor's, che taglia le stime di crescita al 5%, peraltro condivisa anche dagli altri analisti, perché già era in rallentamento al 6,2% la Cina. Che a noi sembra una performance lunare. Vabbè, ovviamente, certo. Ma per la Cina è il minimo sindacale della crescita cinese, che serve solo ad alimentare la crescita della domanda interna e quindi delle produzioni interne, e di non riverberare benefici, diciamo così, sugli andamenti dell'economia complessiva, perché per fare questo la Cina ha bisogno di andare oltre il 6. Se dovesse scendere al 5, evidentemente una parte dei motori, uno dei grandi motori che consente al mondo di far girare l'economia, sarebbe in fase di spegnimento, e questo è molto grave. Le nostre relazioni con la Cina sono molto forti. Abbiamo visto solo ieri il dato del turismo atteso, in quale cortocircuito è andato a finire. Abbiamo un'aspettativa di 13 milioni di presenze in meno e di 1,6 miliardi di danni. Ci sono danni alle crociere, danni naturalmente al lusso e alla moda. La Cina contribuisce, diciamo, quasi per il 30% alla crescita, alla performance dell'aumento della crescita complessiva. Quindi se viene meno quello, sicuramente c'è un riverbero su tutti i settori, non ultimo peraltro anche l'automotive. Ma il fatto che venga poi considerata da Standard & Poor's una ripresa della Cina entro il terzo trimestre dell'anno non ci dà un po' di fiato? Oppure quella che persa è persa? Beh, quindi... purtroppo funziona così, chiaramente hai due trimestri brutti e nella migliore delle ipotesi, appunto nell'ipotesi che si riesca a circoscrivere l'epidemia e a trovare una soluzione in un tempo ragionevole, è chiaro che la Cina è in grado di mettere in campo performance di recupero, di crescita e di riscatto anche agli occhi del mondo molto evidenti. Io anch'io personalmente, per quello che conta, vale a dire niente, penso che sicuramente la Cina di Xi Jinping giocherà la carta del virus come simbolo del riscatto cinese, perché troveranno l'antidoto, chiamiamolo così, e su quella via recupereranno poi l'immagine che hanno perso nel mondo, perché Xi si sta giocando davvero la faccia dopo le ambizioni egemoniche della Via della Seta, insomma, con cui presentava la Cina come grande nuovo protagonista, sì, dei commerci in tutto il mondo, locomotiva, perché... insomma, questa cosa è davvero un vulnus molto molto pesante. Situazione quindi difficile, vedremo nel tardo pomeriggio quello che sarà per l'Italia. Fitch, c'è un ascoltatore, te lo sottopongo così, che ci scrive: a proposito del crollo della produzione industriale in Germania e Francia, se si continua a, diciamo, stangare, scrive lui, la produzione di auto imponendo quella elettrica, non si ottengono benefici né ecologici né sul punto dell'economia. Qui andiamo oltre, secondo me, però, la questione. No? Beh sì, qui siamo oltre, cioè... nel senso, qui siamo sulle grandi direttrici di sviluppo della politica economica di un paese. Chiaramente non è solo un paese, qui è il mondo che si sta orientando verso le auto ibride e sta accompagnando il cambio di paradigma tecnologico della manifattura. E la Germania stessa comunque la Germania si sta proponendo così, è un po' in ritardo, ma ha aumentato molto la Volkswagen ha fatto un piano di investimenti sull'elettrico enorme, sono più avanti i giapponesi su questo, per esempio, però insomma è chiaro che il mondo sta un po' cambiando la modalità con cui fruiremo delle automobili e quindi questo è un passaggio inevitabile, è aiutato poi dalle politiche di finanziamento che fanno i diversi governi, ma non penso che sia da mettere non è colpa di quello, è semplice, ma è troppo semplice, troppo messa così. Grazie Alberto, grazie a lunedì, buon fine settimana di lavoro, ma insomma buon fine settimana, grazie. E a questo punto, ringraziando Alberto Rioli, cambiamo un'altra volta pagina, parliamo di Casa delle Donne a Roma. È stato dichiarato inammissibile l'emendamento presentato dai relatori al decreto mille proroghe per finanziare con 900.000 euro nel 2020 la Casa Internazionale delle Donne di Roma. La Casa delle Donne rimane sotto sfratto. I progetti però rivolti alle donne, sono donne in difficoltà, vanno avanti, dice al microfono di Cristina Carpinelli Maura Cossutta, presidentessa della casa, con però una discreta preoccupazione. Sentiremo. Noi abbiamo servizi contro la violenza alle donne, servizi di ascolto, di accoglienza. Noi garantiamo la tutela legale per queste donne. Affrontiamo anche tutti i problemi, i disagi gravi che hanno i bimbi che assistono alle violenze familiari. Quali sono i numeri? Nel senso, quante donne avete accolto? Centinaia e centinaia e centinaia. Noi siamo aperte tutti i giorni. Questi servizi hanno anche un valore economico, perché se li dovesse fare il comune dovrebbe spendere tantissime risorse. Intanto però ieri l'emendamento è stato giudicato inammissibile e ad esultare pubblicamente è stata una donna, quindi Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Abbiamo letto, certo non mi dispiace, ma posso dire che era prevedibile purtroppo, perché Giorgia Meloni è una donna certamente, ma è la leader di una forza fascista, apertamente macista. Ma a voi cosa servirebbe in realtà? Noi vorremmo che si aprisse un tavolo per dire che cosa serve? Noi abbiamo fatto delle proposte. Noi abbiamo fatto una proposta di transazione economica per azzerare il conflitto con la Corte dei Conti. Una proposta significativa rispetto alla quale chiediamo almeno una risposta. La Raggi non ci risponde. E la seconda cosa che chiediamo è che si rinnovi la convenzione. Noi ad oggi siamo senza convenzione perché la Raggi da un anno e mezzo ci ha tolto la convenzione perché siamo, tra virgolette, morose e noi continuiamo a svolgere le attività, quelle previste dalla convenzione, le continuiamo a svolgere senza una lira e abbiamo detto che a questo punto chiediamo il comodato gratuito. E a questo punto le informazioni sul traffico.